casa dell'energia il discorso è molto chiaro. La Francia non segue quello che l'Europa ha imposto, noi l'abbiamo seguito, non venga qui a fare quello che a casa sua nessuno può fare. Diverso è il discorso per una Bulgari, per una Parmalat, per altre aziende di questo tipo. E ora Trapani diceva giustamente: io ho cercato accordi ma non ci sono riuscito, perché ognuno vuole continuare a comandare in casa propria. Questo non può che portare alla fine a questi risultati, quindi io credo che non abbia senso nel lungo termine un'azione come quella che secondo i giornali parrebbe che il Ministro dell'Economia volesse seguire. Nel lungo termine non ha senso, nel breve termine il discorso è diverso, perché secondo me il fine di questa azione è solo di bloccare nell'immediato alcune operazioni, Parmalat in primis probabilmente. Però tutti sanno che la Corte europea non passerà, l'Unione europea per prima e un domani se fosse necessario anche gli organi giurisdizionali dell'Unione, mai accetterebbero il vigore di una legge come questa, perché cosa vuoi? Alla fine verrà fuori una legge che dirà che ci sono delle imprese strategiche che sono definite con decreto ministeriale, che in quelle imprese strategiche nessuno può avere più dell'X%. Questa è una roba che non sta né in cielo né in terra, nell'interno dei confini dell'Unione. Quindi sarà, se così sarà, come credo debba essere, cassata, però nel frattempo si sarà fermata l'orda barbarica. A me viene un po' da ridere, se un paese è debole non è che diventa forte in questa maniera, perché queste difese alla fine lasciano il paese più debole ancora di quando sono state erette.